Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Esco stordito. Mamma mia, che botta che le ha dato. E che ha dato pure a me. E brucia ancora di più perché sento che in fondo ha ragione lei, la signora anziana. Perché solo per il fatto di avere 80 anni dovrebbe rinunciare a sperare in una vita lunga e senza sofferenza? Piglio e porto a casa. Mi chiamo Alfonso, ho 42 anni e vivo in provincia di Como. Ho una moglie, Romina, fantastica, e due figli. Sono un medico e suono nel corpo musicale del mio paese. Sì, mamma, però aspetta, il compleanno di papà quando è esattamente? Il 14 maggio, che è lunedì. Ok, allora, per il pranzo di domenica sono a casa. Però io sono al Salone del Libro giovedì 10, venerdì 11 e anche sabato 12. Ho cercato di spiegare al telefono a mia mamma esattamente quando saremo al Salone del Libro e che cosa faremo. Lei pare avere capito. Vabbè, ci ho fatto un video a sua insaputa ed è sul profilo Facebook, lo trovate se avete voglia. Matteo Caccia, io sono qui. Noi siamo là giovedì 10 e venerdì 11 in diretta alle 16 e poi sabato 12 in un orario ancora da precisare a fare un piccolo evento live. Costruiremo una puntata di Io Sono Qui dal vivo. E quindi per sabato, se venite, fate una cosa. Portate i racconti che di solito ci mandate a Voi Siete Qui, @radio24.it, e io e Tiziano e Margherita, se c'è, speriamo, vi facciamo vedere come costruiamo una puntata, dalla lettura del racconto alla messa in onda. Invece giovedì e venerdì, molto semplicemente, fate una cosa: venite un po' prima, venite un'ora prima se riuscite. Siamo lì, facciamo quattro chiacchiere e giochiamo a un gioco che si chiama Voi Siete Qui Ora. La puntata sia di giovedì che di venerdì è dedicata tutta alle cose che vi sono successe in quella giornata lì. Giovedì se venite giovedì, venerdì se venite venerdì. Prendo 10 episodi che vi sono successi in quella giornata. Proprio una domanda semplice vi facciamo: cosa ti è successo oggi? Da quando sei uscito di casa la mattina a quando sei arrivato lì, al Lingotto, al Salone del Libro, nello stand di Radio 24. Scelgo alcuni degli episodi che mi scrivete, mi prendo mezz'ora per scriverle e poi andiamo in onda. È un gioco che facciamo con voi che siete lì, dal vivo, e con le persone che ascoltano, ovviamente, in onda, alle 16 su Radio 24. Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12. Ci vediamo a Torino. Torniamo ad oggi invece. La puntata di oggi è una puntata molto delicata e molto particolare, più del solito, perché parla sembra roboante, ma parla di vita e di morte. Parla più di vita, soprattutto, e parla della vita vista dalla morte. Cioè, sembra roboante veramente così. Parla di aspettativa di vita, ok? Così è semplice. Se siete degli ipocondriaci veramente fortissimi, abbassate un po' il volume della radio per i primi due minuti. Altrimenti fate questo gioco, fatelo insieme a me. Perché leggendo il racconto di Alfonso, che è un racconto bellissimo, scritto da un medico e che quindi ha a che fare un po', vede probabilmente la vita vista dall'altra parte abbastanza spesso, se non tutti i giorni, abbastanza spesso. Insomma, ho fatto una ricerca velocissima, la potete fare anche voi. La speranza di vita alla nascita in Italia è di 79 anni per gli uomini e di 84 anni per le donne. Sono stime Istat queste. Ora fate un conto velocissimo. Quanti anni avete? E quindi in base a questi dati, cioè 79 anni per gli uomini e 84 per le donne, quanti anni vi rimangono? Ma soprattutto, perché questa è la cosa più interessante, quanti anni vi servono per realizzare ancora le cose che volete fare e non avete ancora fatto? 349-238-6666 oppure Voi Siete Qui, @radio24.it. Alessandro Marcotulli, ad esempio, che ci raggiunge in questo momento, che è qui, che lavora per Oscar Giannino, e è sempre, quando arrivo è sempre trafelatissimo. Marcotulli ha 39 anni, giusto? Quest'anno 40, perdonami. Oggi? Il 7 di aprile, ma anche chi se ne frega, ad aprile ha compiuto 40 anni, quindi secondo i dati Istat, Alessandro, ti mancano da 79 meno 40, 39 anni di vita. Tu hai fatto il grande giro di boa, Ale, hai fatto il grande giro di boa, ti mancano 39 anni di vita. La domanda è: quanti anni ti servono ancora per realizzare quello che non hai realizzato? 349-238-6666. Allora la risposta è troppi per tutti. Però magari no, invece magari fatevi un calcolo: c'è un viaggio da fare, un figlio da partorire, una casa da comprare, quanti anni vi servono? 10, 20, noi infatti tre di figli siamo a posto, però un viaggetto magari che non sia Igea Marina, no? Gliele facciamo fare a sti ragazzi o no? 349-238-6666. Il Mar Rosso è la tua destinazione, Marco Tulli, dai retta a me. Oppure voi siete qui, @radio24.it. Vi faccio un esempio. Vabbè, siccome questa cosa l'aveva scritta stamattina su Facebook, qualcuno mi ha scritto: cazzarola Matteo, certo che di prima mattina sei un po' pesante. È solo un calcolo, non è nient'altro. Luca, 79-21. Ho 58 anni. Dai calcoli appena fatti me ne servirebbero altri 59 per realizzarmi. Nel frattempo, cercando di non essere un morto vivente prima dei 79, spero di passare la mia vita in preda all'estasi di una vorace rapacità di tutto ciò che prima ancora di essere giudicato bello lo è realmente. Vabbè, no, è che ha 21 anni, Luca. Antonella, che roba etaista che ho detto. Antonella, mi mancano 42 anni, esattamente nel mezzo del cammin. Penso che 42 anni saranno più che sufficienti, forse anche troppi. Per Luigi, molte volte i sogni si realizzano in 2 anni. Vabbè, ma chi se ne frega? Quanti anni vi mancano e quanti vi restano per fare quello che volete? 349-238-6666. Tutto questo grazie a un episodio che è capitato ad Alfonso nella stanza di un ospedale. Eccomi qua, ancora qua, su questa maledetta tangenziale come tutte le mattine. Chissà che lavoro fa tutta questa gente, chissà dove abita. Per quanto mi riguarda è inutile che mi lamenti. Sono pendolare da una vita e non voglio assolutamente cambiare. Ci tengo troppo a ritornare la sera al mio rassicurante paesello di provincia. Sto andando al mio ospedale, sono un oncologo. Spesso mi chiedono perché ho scelto questa specialità. Ecco, a chi me lo chiede, pensando di sentirsi rispondere dei bei discorsi edificanti sulla vocazione o altro, io in realtà rispondo che ho scelto questa specialità in modo del tutto casuale, per una serie di combinazioni, senza nemmeno sapere bene che cosa significasse la parola oncologia. Sì, è andata così. Vuoi venire a lavorare con noi? Sì, vengo. Che reparto è? Ho scelto di fare l'oncologo per caso. E è un lavoro piuttosto particolare, in alcuni momenti molto difficile, ma è anche una ricca fonte per conoscere le persone più a fondo. Il mio ospedale è una cattedrale nel deserto. Il mio sguardo, che spesso ricerca fuori dalla finestra qualche consolazione, almeno di natura paesaggistica, incontra solo distese di campi, verdi d'estate e marroni in inverno, dove solo le cornacchie trovano soddisfazione. A me manca l'aria. Come tutte le mattine saluto i colleghi, riguardo alcune cartelle preparandomi per il giro visita e si parte. Trovo sempre un fenomenale campionario di umanità nelle stanze che visito, ma il ritmo imposto dai tempi sempre tirati mi impedisce di approfondire come vorrei quella curiosità che da sempre le persone mi suscitano. Cose banali, ma che non riesco a soffocare. Cose tipo: è bello il posto in cui abiti? Sei sposato? Quanti figli hai? Vivi con loro? Bello il libro che hai sul comodino, l'ho appena letto anch'io. Ma non c'è mai tempo. Fuori da una stanza, dentro un'altra. E poi arrivano loro due. Sono due donne, una molto giovane con una malattia molto avanzata, l'altra invece anziana ma con una malattia decisamente meno impegnativa. Inizialmente le domande sono quelle di routine: passata bene la notte? I dolori come vanno? La terapia di ieri vi ha dato disturbi? E il nostro compito sarebbe già finito. Poi però, non ricordo innescato da cosa, il discorso si incanala su una strada assolutamente imprevista. La donna anziana non smette più di lamentarsi, e a me pare che alcune di queste sue argomentazioni siano assolutamente pretestuose, scostanti e decisamente sproporzionate, ancora di più se paragonate alla reale sofferenza della sua vicina, che è più giovane e che fino ad allora aveva già affrontato per molti mesi cicli diversi e devastanti di terapia senza successo, mantenendo però, nonostante tutto, un atteggiamento delizioso e un sorriso che scioglieva il cuore ogni volta che le parlavi. Ecco però che per la prima volta arriva inaspettata la reazione della giovane, che improvvisamente salta su e dice alla signora anziana, con parole durissime e strafottenti, di non fare tante storie, perché tra le due è lei quella che soffre di più e non è nemmeno sicura di poter raggiungere la sua stessa veneranda età. La signora anziana aveva una faccia incattivita dalla malattia, ma era molto lucida. La signora giovane era molto più sofferente per la sua malattia, e anche lei aveva molta lucidità. Io spudoratamente parteggio per lei, per la giovane. L'anziana però mi spiazza ancora di più. Si solleva sul letto e risponde a tono e in modo in fondo ineccepibile. Che cosa c'entrano l'età e la vita, dice. La percezione che ognuno di noi ha della propria malattia e della propria sofferenza è totale e non lascia alcun posto per considerare quella di un altro. Non può essere paragonata da un individuo a un individuo. E chiude dicendole: la voglia di vivere è identica a 20 anni come a 80. Esco stordito. Le ha dato una gran botta, eppure a me. E brucia ancora di più perché sento che in fondo ha ragione lei, la signora anziana. Perché solo per il fatto di avere 80 anni dovrebbe rinunciare a sperare in una vita lunga e senza sofferenza? Piglio e porto a casa. Tra un po' di tempo non ricorderò più i loro nomi e nemmeno i loro volti, ma porterò sempre con me questi 5 minuti del loro tempo e la loro straripante voglia di vivere. Dopo qualche anno, ora non ricordo se quella mattina ci fosse la nebbia in tangenziale, ma al ritorno sono sicuro di no. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Do they all belong? Do they all belong? Dunque, la speranza di vita in Italia alla nascita è di 79 anni per gli uomini e di 84 per le donne. Lo dicevamo prima, no? Sono stime dei principali indicatori demografici relativi al 2010, forniti dall'Istat. Altri dati dicono che all'età di 65 anni la speranza di vita residua è di 18 anni per gli uomini e di 22 per le donne. Mi sono cercato questi dati proprio dopo aver letto il racconto di Alfonso e ammetto che di tutti i racconti che sono arrivati, questo è quello che mi è rimasto sotto pelle per un bel po' di tempo dopo averlo letto. Per due motivi diversi. Il primo perché, per quanto scortese e noiosa nel suo lamento continuo, ha veramente ragione la signora anziana, che non vuole mollare nonostante l'età. Sono proprio d'accordo con Alfonso quando dice che non c'è motivo per non desiderare di vivere a lungo, anche se si hanno 80 anni. Il secondo motivo invece è molto più personale. Ed è che per la prima volta ho fatto i conti. Cioè, per la prima volta nella mia vita, a pochi mesi dal compimento del mio 37esimo anno, ho preso una calcolatrice e ho contato quanto mi manca da vivere stando a sti parametri, quelli dell'Istat. E così, dando per scontato di essere nella media degli italiani, quei 79 anni che sono la speranza di vita media, sono gli anni che vivrò, ok? Ok, vabbè, non possiamo saperlo, però sto ragionando per assurdo, quindi lasciatemi andare fino in fondo. Ho quasi 37 anni. Questo vuol dire che mi rimangono da vivere 42 anni. Ho ancora 42 anni di vita. Vista da qui, sinceramente non so dire se sono pochi oppure no, cioè non so dire se sono felice o se sono spaventato. Quello che so è che non ho ancora girato la boa, quantomeno, non sono come Marco Tulli, cioè non mi rimangono da vivere meno anni di quanti ne ho già vissuti. Non per molto però, tra 3 anni sarà così. Nel 2015 avrò 40 anni e me ne rimarranno 39. Provate a farlo anche voi sto calcolo e vi assicuro che la sensazione è abbastanza strana. Comunque, torniamo ai 42 anni che ancora mi posso godere. 42 anni. 42 anni sono, ad esempio, 42 estati da passare al mare, ma sono anche 42 inverni per poter andare a sciare. In 42 anni però ci stanno solo 10 campionati del mondo di calcio. E questo significa che, visto che sono passati 24 anni dalla vittoria in Spagna dell'82 a quella in Germania del 2006, mi rimane un'altra sola possibilità di vedere l'Italia vincere un mondiale. Mentre non ne ho praticamente nessuna di rivedere un'altra Champions vinta dall'Inter. In 42 anni posso fare 56 figli con la stessa donna o tantissimi con donne diverse. Però se non mi sbrigo sarò troppo vecchio per vederli passare i loro 40 anni. Mi rimangono 42 Natali in cui preoccuparmi dei regali da fare, ma spero almeno che in qualcuno di questi ce ne sia uno buono che ricevo. In questi 42 anni vorrei infilarci un viaggio in Islanda, uno in Australia, uno in Africa e un lungo periodo negli Stati Uniti. Vorrei scrivere un libro vero e buono. Vorrei smetterla di mangiare affettati o almeno di mangiarne troppi. Vorrei costruire una casa o almeno farla costruire e non entrare in una fatta da altri. In 42 anni vorrei imparare un po' di più e dimenticare un po' di meno. Nei prossimi 42 anni vorrei non smettere di pensare che in fondo un motivo per andare avanti c'è sempre. E magari vorrei riuscire a incontrare quella signora, la signora anziana, che mi ricordi che pensare che vivere abbia un'età è una vaccata, perché la vita non invecchia mai. Posso riempirli di cose buone o buttarle via, questi 42 anni. Questi 42 anni che mi rimangono davanti. E spero proprio di non farlo. Anzi, magari in questi 42 anni smetto addirittura di essere astemio. I am a passenger and I ride and I ride. I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Anni per finire di pagare il mutuo e vedere mio figlio ora 18enne che si sposa e mi darà dei nipoti. Ciao Elena, 40 anni da Livorno. 349 238 6666. Siamo arrivati a parlare di tutto questo grazie ad Alfonso e a quell'incontro di quel giorno in ospedale. Pronto Alfonso? Ciao Matteo. Ciao, tutto bene? Come stai? Io bene, tu? Sì, bene, grazie. Dove ti trovi, in ospedale? No, sono a casa, ho fatto il ponte. Ah, dimmi che non hai preso ferie perché dovevi andare in onda, perché ormai ho dei sensi di colpa nei confronti no. Del PIL che cala. Ok, semplicemente no. Avevi già previsto di stare a casa indipendente? Sì, un recupero di ore già lavorate. Senti, quando è successo questo episodio? Quanti anni fa? Parecchi anni fa, più di 15 anni fa, diciamo nella mia infanzia oncologica, come la chiamo io, insomma. Cioè nella tua infanzia di carriera, vogliamo dire, sì, giusto? Sì, ero, adesso a dirti la verità non mi ricordo se ero ancora uno specializzando oppure se ero un, se mi ero appena specializzato, ecco. Quindi questo. Quanti anni avevi più o meno, Alfonso? E avrò avuto 30 anni, 3. Non so, adesso. Senti, io ho 42 anni, aspetta, anch'io non sono tanto bravo in matematica. Vabbè, insomma, ne hai 42, quindi te ne rimangono 35. No, 25. Vero. No, aspetta, 35, perdonami, non volevo toglierti 10 anni così pronti via. Senti, davvero tu hai scelto oncologia così, senza sì. Veramente sapere quasi cosa fosse? Sì, sì, è la verità. Io ho studiato per tutti i 6 anni di università con altri 3 amici carissimi. Uno di questi ha una sorella che lavora, credo ancora, in un reparto di oncologia. E lei aveva bisogno di una persona che, insomma, di un giovane che avesse prospettive di laurea abbastanza veloce e niente, allora sono andato lì a vedere, a sentire, e dopo mi sono accorto che quello era un reparto di oncologia. Senti, questa lo so che è una domanda che ti faranno tutti, è una domanda banale ed è proprio per questo che te la faccio. Sì. Fare il medico, ma ancor di più, essere un oncologo è un lavoro come un altro? Sì e no, nel senso che molto spesso si viene a contatto con certe situazioni, insomma, che è difficile come dire, dimenticare una volta che uno stimbra il cartellino, insomma, per cui, però ecco, bisogna cercare di avere anche un certo tipo di distanza, diciamo tra virgolette, con quello che capita, perché altrimenti è davvero dura ritornare a lavorare il giorno dopo, cioè, insomma. Quindi quando torni a casa tu riesci a tornare a casa? Cioè riesci ad essere a casa? Sì, ho scelto di lavorare in un ospedale, perché l'ospedale di cui parlo nel racconto è un grosso ospedale, diciamo, dell'Interland milanese, sì. Mentre adesso lavoro da parecchi anni in un ospedale di provincia, quindi ho scelto di spostarmi anche per ottenere un certo tipo di qualità di vita che probabilmente in quel grosso ospedale non riuscivo ad avere appieno, insomma, poi... Come ho già detto, ho una moglie, ho 2 figli, suono il clarinetto, insomma, ho un po' di cose che mi fanno svagare. Suono il clarinetto dove? Nella banda, presente la banda di paese. La banda di paese, certo, ma scusa, sì, che paese è, se si può dire? Sì, si può dire, Grandate, provincia di Como. Grandate, certo, Grandate appartiene un po' a quel gruppo di paesi che finisce in Ate e che è tra Como e Varese, più o meno. Sì, esatto. Senti, ma la banda si riunisce settimanalmente a provare oppure ormai si conoscono le cose? No, magari. No, siamo tutti degli amatori della musica, nessuno di noi è, almeno la minoranza di noi sono professionisti. Ci troviamo tutti i mercoledì sera a fare le prove e poi, vabbè, concerti. Cioè, fate i concerti. Ma scusa, la banda non fa solo le feste di paese in giro e cammina per il paese? Vabbè, in realtà noi, come dire, abbiamo cercato di cambiare un po' questa cosa. Diciamo che siamo più, adesso forse il termine è un po' troppo ridondante, però ecco, un'orchestra fiati, ecco, più che altro. Senti, e poi ti devo salutare, Alfonso. Sì. L'ultima domanda, che è la domanda più grossa, però tant'è. Qual è il più grande insegnamento che hai avuto dal tuo lavoro o da un'esperienza simile a quella che hai avuto nel racconto che ci hai fatto? Ma praticamente quella che dico alla fine del racconto, cioè che l'approccio che devi avere davanti a qualsiasi paziente che abbia 90 anni o che ne abbia 20 è lo stesso, cioè di pensare che quella persona è lì con tutte le sue angosce e vuole assolutamente vivere questo. Che come dire che la vita non ha età, insomma. Esattamente. Grazie mille, Alfonso, e buona giornata. Niente. Ciao. Grazie, ciao. Adesso la borsa, c'è la borsa o hanno fatto il ponte? Adesso la borsa, e poi voi siete qui. Questo è un metro, vedi? Sì. 100 centimetri. 100 centimetri. Oggi è tuo compleanno. Auguri. Grazie. Però è parecchio che non fai un film. Dai, sono successe cose più importanti. Sì. È nato Pietro. Sì, sì, sì, però cerca di stringere. Quanti anni è che vuoi vivere? 70, 75? 80. 80, però tolgo 20. E questo 80. Oggi compi 44 anni. Quindi devo andare giù fino a qua. Ecco, guarda. Questo è quello che resta. Auguri, comunque. Voi siete qui. C'è qualcosa di artistico nella foto che ci ha mandato Alfonso. Trovate, come al solito, sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Perché all'inizio sembra un errore questa foto, cioè sembra, avete presente quelle stampe quando si facevano stampare le fotografie dal fotografo del paese, dal Lenzio nel mio caso, a Romentino, che Margherita Ina se lo ricorda bene, è ancora vivo Enzio, è ancora un negozio di fotografie a Romentino, è cugino di Margherita Ina, ma siamo tutti qui ragazzi, Scusa, puoi rimandarmi la sigla della foto perché abbiamo parlato d'altro. Voi siete qui. Dicevamo di Enzio, il fotografo di Romentino, e torniamo alla foto di Alfonso, che è proprio, sembra uno di quegli errori di stampa, no? Per cui ci sono due foto sovrapposte, o forse gli errori che uno ha fatto due volte la stessa foto quando era finita la pellicola. E invece no. Alfonso si trova con suo figlio, Alfonso ha su una polo bianca, ha la barba e si vede poco altro, il figlio è piccolino, ha su una maglietta verde, è su un treno e la fotografia è scattata da dentro, chiaramente dallo scompartimento verso fuori, si vede il verde delle piante, si vede la testa del treno, ma quello che si vede è semplicemente il riflesso di lui e suo figlio sul vetro del finestrino. Ma come sta Enzio? Scusa Margherita, è una vita che non lo vedi. Non lo vedi neanche tu, anche se è tuo parente. Vabbè, domani è il 1° maggio, ma siamo in onda comunque con grande scorno di tutta la famiglia comunista di Margherita Ina, che dice il 1° maggio, la festa dei lavoratori, è da santificare. Niente, in onda anche domani alle 16. Mi auguro di vivere fino a diventare nonno di almeno un nipote. Luigi da Bari, 43 anni. Si parla di aspettativa di vita che vi ricordo, per gli uomini è 79 anni, per le donne 85. E a questo proposito Stefi scrive: ho scelto un compagno 5 anni più giovane di me per non rimanere vedova troppo a lungo, e i vostri dati mi danno ragione. Ecco Stefi, non sono dati nostri, sono dati Istat, così per evitare di fare gaffe. Ho 46 anni e io invece ho fatto i conti economici per poter smettere di lavorare adesso e campare altri 40 anni, come vedremo. Ciao Diego, guarda, quantomeno pensa che non devi campare 40 anni ma ne devi campare 79 meno 46, 6, 3, riporto di 33, quindi rifai i tuoi calcoli. Davide, io non ho programmi, quindi me ne restano comunque troppi, che palle! E poi qualcuno mi scrive, grazie. Tutti i paesi con suffisso ate circondano Milano. Sono retaggio longobardo, paesi fortificati a difesa del nucleo centrale. Ragazzi, si fa della cultura, non per merito nostro ovviamente, ma per merito degli ascoltatori. 349-238-6666. Ecco, prima non ve l'ho detto, non so perché non ve l'ho detto, ma volevo dirvi che c'era una sorpresa. Quindi se non l'avete sentita prima e ve la siete persa, ve la sentite in podcast. Se invece siete lì adesso, la sentite adesso. C'è comunque un podcast, lo scaricate sul sito di Radio 24 o attraverso iTunes gratuitamente. Quando abbiamo letto il racconto di Alfonso, a Tiziano è venuta in mente una cosa che poteva venire in mente effettivamente solo a lui, che è il primo radiodramma della storia della radiofonia, che parla esattamente di questo. Parla del fatto che non perché sei più vecchio hai meno voglia di vivere. Cioè che la vita non ha un'età. La vita non ha aspettativa di vita. È un radiodramma scritto nel 1924, quando l'autore, che è Richard Hughes, ha ricevuto dalla British Broadcasting Company, cioè la BBC, la richiesta di scrivere un dramma per soli effetti sonori, così dice il testo. Questo quindi è stato il primo dramma per l'ascolto. La prima realizzazione del dramma è stata trasmessa dalla London Station il 15 gennaio 1924. Io cercherò di interpretarla come un vero attore anni 20 inglese, farò del mio meglio, vi chiedo scusa se non ne sarò in grado. I personaggi sono tre, è un breve stralcio: sono Jack, un giovane, Mary, una ragazza, e il signor Bucks, un uomo anziano con la voce burbera e un modo di parlare piuttosto artefatto. La storia è molto semplice: questi tre si trovano in una caverna, sono bloccati nella caverna, l'acqua sta salendo e fanno i conti sul tempo che gli rimane. Jack, l'acqua sta arrivando, ce l'ho sui piedi. Jack, coraggio tesoro. Mary, oh Jack, io non voglio morire, odio la sola idea, mi ripugna, io voglio vivere. Jack, con dolcezza, non rendere le cose più difficili, cara. Credi mi diverta vederti morire? Mary, Jack, è orrendo. Un'altra ora soltanto, Dio, voglio vivere un'ora ancora. Jack, c'era qualcosa che volevo dirti e non riesco a ricordarmela. O me ne devo ricordare. Presto sarà troppo tardi, Jack! Jack, oddio, non mi ha consentito finire il mio lavoro. Bucks, al diavolo il suo lavoro. Crede di essere l'unico a morire prima del tempo? Le dico che tutti muoiono prima del tempo. Anche a diventare vecchi, come Matusalemme. Mary, l'acqua è arrivata alle ginocchia. Jack, con molta calma, non ti avvinghiare così. Mary, non concludi nulla. Mary, ma l'acqua, la corrente mi porta via. Jack, ti tengo io e con l'altro braccio mi tengo a questa specie di legno. Mary, tieni forte allora. Jack, ti tengo forte. Pensa solo, Mary, a tutte le cose che volevo fare. Bucks, la pianti con le cose che voleva fare, pivello che non è altro. Si vuole rendere conto che siamo nella stessa barca e che per me è duro morire quanto lo è per lei, se non peggio, per Dio, mille volte peggio. Mary, Jack, tesoro, non ti lascerò mai. Bucks, ma come fa a saperlo che la lasceranno stare con lui? Sciocca! Che ne sa lei della morte? Glielo dico io. La morte non è né il paradiso né l'inferno. È semplicemente morire, teste di legno che non siete altro. La morte è il nulla. Non è neanche un maledetto fantasma che si trascina le catene sferraglianti per le scale. Left a bag of bones, a trail of stones, for to find my way home now. As the air grows cold, the trees unfold, and I am lost and not found. Un'interpretazione del radiodramma, del primo radiodramma della storia, da far venire i brividi a tutte le nonne all'ascolto, compreso Giacomoni, il nonno di Margherita, e mia nonna Lina, che sicuramente lì che ascolta e si sarà imbarazzata per me. E come non darle torto. Ciao, io ho 41 anni, ne mancano solo 38. Il mio sogno è fare il tassista a Milano. Me ne servono 38, ma servono 190.000 euro. Ciao, bello, forza Milan. Scrive tutto lui in un unico SMS. E poi ancora lui. Ero quasi preoccupato di non sentirlo più. Giampaolo da Zocca: come vorrei realizzare ed avere Radio 24 a Zocca? Non ho che 12 anni per realizzarlo, ci riuscirò? Sì, se tu vuoi. Zocca c'è. Giampaolo, ti ringrazio, così però gli anni di vita li togli a me invece che a te. Vorrei chiudere invece con una notizia ufficiale che abbiamo in mano da un'ora, forse poco prima della diretta, ed è che è pronto l'ebook con le 100 storie con... aspetta, non è ancora online. Ok, scusatemi, stavo già facendo la mia boiata. Allora, beh, però è pronto ma non è ancora online l'ebook con le 100 storie raccolte, arrivate fino ad oggi a Voi Siete Qui. L'ebook sarà online dal giorno in cui siamo al Salone del Libro, mi pare di ricordare bene. E approfitto, e non smetterò mai di ringraziare Tiziano per il suo lavoro e Margherita Ina per aver mandato 100 mail in cui chiedeva la... come si chiama? la delibera, la liberatoria, per cui insomma quelli che avevano scritto i racconti ce lo facessero pubblicare. Ripeto, l'ebook è gratuito, sarà online sul sito, lo si può scaricare grazie a un sito che si chiama Simplicissimus, che è un sito dove, se volete creare un ebook, potete farlo anche voi. Ringrazio anche Francesco, che ha creato una copertina che è bellissima e che vedrete quando tutto sarà pronto. Ripeto, l'altro giorno mia mamma mi ha chiesto come si fa a scaricare, e io le ho detto non lo so, quando online vengo a scaricartelo io, però sarà facilissimo, giusto? Sarà facilissimo. Spero che siano troppi gli anni che mi servono, perché vorrebbe dire avere sempre un obiettivo davanti. Questa filosofia non è male, e concludiamo con lei. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Hino e soprattutto grazie a Pietro Lacorte e al suo preziosissimo lavoro. La storia di oggi è la storia di Alfonso e parlava di speranza di vita. Quella di domani è la storia di Paolo e parla di lavoro. Ho 46 anni e faccio parte di una generazione che ha fatto carriera al contrario. Piano piano abbiamo visto le nostre imprese perdere fette di mercato e ridurre le attività lavorative. Quelle che una volta erano sicurezza economica e aspirazioni di carriera si sono trasformate in paura di perdere quel posto di lavoro che una volta consideravamo intoccabile.